chissà oggi dove si va. Tieni, fuma questa che io sto ancora qua, con gli zombie in comitiva, l'ansia collettiva, non si ferma la locomotiva. Disperati, diffidati, vivono e non cercano i significati. Imputati, implicati, con tutti i sentimenti amplificati. Perché non possono scegliere se avere la merda oppure qualcosa di meglio, visto che la notte li inseguono con le sirene a gruppi di quattro come le iene. Perché è questo quello che gli conviene. Sottovoce con il cell, senza batteria, cuffia a palla e faccio la via lattea mia, mia. Verità a tempo fra musica pentotal, con lo stipendio nel cielo far. Chissà domani come va. Chissà domani come va. Chissà. Chissà domani come va. C'è qualcuno che lo sa? Chissà domani come va. Come va. Come va. Chissà domani come va. Come va. Chissà domani come va, come va, yeah. Chissà domani come va. Li senti? Arrivano. Sono gli stessi di prima, no? Tanto di che vuoi che ci privano. Che c'hai qualcosa addosso, dai mettila là dietro, al massimo ci sgridano. Dici che non si fidano, non cercheranno mica noi. E poi un po' di vite rovinate, stanze fredde male illuminate, 4-5 metri quadrati, che per sdraiarmi faccio aggomitate. Ne valsa la pena? No, perché ormai confondo l'inverno con l'estate, qua non c'è pace. Non sono cattivo, ma voi, per restare tranquilli, come fate? Però chissà domani come va, come va, come va. Chissà domani come va, come va, yeah. Chissà domani come va, come va, yeah. Chissà domani come va. Chissà domani come va. Chissà domani come va. Chissà. Chissà domani come va. C'è qualcuno che lo sa?